Un ultimo arrivato in redazione proprio in questo momento a Belgrado, c'è stato un tentativo di attacco all'ambasciata di Israele nel quale è rimasto ferito un poliziotto, l'assalitore è stato ucciso. Ultima ora, prossimo TG2 oggi alle 20.30, in linea ai colleghi di Rai Sport, grazie e buon proseguimento di giornata.